Un giorno di questi ti sposerò, stai tranquilla, così la smetterai di darmi il tuo amore col contagocce. Un giorno di questi ti sposerò, stai tranquilla, così la smetterai di rinfacciarmi quello che dice il mondo. Un giorno di questi ti giurerò d'amarti sino all'ultimo giorno, ma tu sai già benissimo che non si può sapere cosa sarà domani. Un giorno di questi ti sposerò, stai tranquilla, così tu avrai diritto di avere quelle cose che adesso io ti do soltanto perché t'amo. Anche l'amore. Ti giurerò d'amarti sino all'ultimo giorno, ma tu sai già benissimo che non si può sapere cosa sarà domani. Un giorno di questi ti sposerò, stai tranquilla, così tu avrai diritto di avere quelle cose che adesso io ti do soltanto perché t'amo.